Bene. Va bene così. Vediamo questo, come te la cavi con questo. Vai, vai. Dai che viene bene. Potete scaricare questa app gratis dal nostro sito. Meno male che gratis. Radio24@chiedosilo.com. Non la so, io non so l'indirizzo del nostro, ma ci abbiamo un sito. chiedosilo@radio24.it. Ah, ma non è un sito. Ah no, è vero, quello è radio24.it, basta. / forse chiedosilo. Che ne so? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oggi, ecco, oggi è venerdì, quindi cedo la parola a K perché, come si sa, il venerdì è il suo giorno. Oh, bravo Drago, vedo che hai imparato. Allora, che dire? Se non lo sai tu, che dire? Ma questi venerdì stanno diventando sempre più estivi. Estivia, capito? Scrivetelo bene, estivia. Perché poi dopo su Facebook mi arrivano i commenti sul venerdì. E le grafie non sono mai precise. No, è sempre più, bisogna scrivere venerdì. Quindi una I, una A o forse anche due A e tante H, ecco, capito? Va bene. Venerdì. Vabbè, infatti mi stavo chiedendo come cambiano i venerdì sera di K quando arriva la bella stagione e la combinata divano TV cagnolino Tito diventa inadeguata. No. Cosa c'è? Parliamoci chiaro, divano TV cagnolino Tito è una combinata buona per tutte le stagioni. Vuol dire arriva la bella stagione, però sai com'è. Un po' sudati. Comunque d'estate hai ragione, preferisco partire con tutta la famiglia per il lago del venerdì. Dovete sapere che K è uno dei pochi non nativi a cui l'aria di lago non ispira pensieri suicidi. Ma tutt'altro, Drago, l'aria di lago mi fa venire pensieri che sono il contrario dei suicidi. Pensieri omicidi, quindi. Quelli sempre. Ma mi riferivo ai pensieri procreativi, capito? Invece di pensare al suicidio penso alla procreazione. Mi sembrano ottimi pensieri. Il fatto è che adesso però il lago ce l'ho in casa. In casa? Mi è piovuto in casa. No. C'è stato il temporale e non si è ancora asciugato niente. Ma capito, Drago? Chitarre, oculeli, amplificatori, fumetti. Ma cazzarola, ma di chi è la colpa? Tutti dicono che è colpa della pioggia. Ma tutti chi? I presunti colpevoli, ossia quello dell'appartamento di sopra, l'amministratore del condominio, quello che fa i lavori di fianco. Quando è così è un casino. Perché si rimpallano, capito? Si rimpallano la colpa uno con l'altro. Intanto chi è nella merda? Chi è nella merda fino alle caviglie? Fino con l'acqua, insomma. E quindi cosa hai fatto? E quindi ho chiamato un avvocato. E mi ha chiesto 500 euro prima di cominciare a parlare. E l'ho mandato a quel paese. E cosa, Drago? Sono incazzato nero. Spero di vedere un perito di qualche assicurazione. Qualunque, perché si è troppo tardi. Qualunque. Sì. Anche se uno fa finta di essere un perito. Già mi ricorrerebbe. Buongiorno, allora, sono un perito. Andate a casa di K e presentatevi come un perito. Mi hanno detto: non toccare niente, lascia tutto così. Almeno i danni sono visibili. Ma io devo anche viverci in quella casa. Mica posso andare con tutta la famiglia al Residence Mirage. No. Vabbè, ma è venerdì, Drago. E quindi? Stasera io e Tito stiamo sul canotto a guardarci la TV. Quindi chi se ne frega? E ora, bambini, ricreazione. Sentite voi due? Sì, ciao Miralberto. Sì, a parte il ciao. Non è che per caso quest'estate avreste bisogno di un bambino alla pari? No, bambino alla pari. Non ne ho bisogno. Poi tu cosa devi? Piazzare qualche bambino disagiato che i tuoi genitori vogliono mettere in famiglia? Cosa vuol dire bambino alla pari? Allora, prima di tutto il bambino alla pari sarei io. Alla pari significa che se voi mi prendete dovete farmi fare la stessa vita che faccio in famiglia, no? Alla pari. Mi dovete nutrire, portare in vacanza, farmi divertire, ovviamente tutto gratis. Quindi, cioè, alla pari nel senso... Pari uguale a prima, vabbè, ma cosa ti fa pensare che uno di noi due abbia voglia di prendersi cura di te, soprattutto anche pagare tutto quanto? Insomma, come va bene, ma non ti rendi conto di cosa stai chiedendo? A parte bambino che non capisco l'urgenza di fare il bambino alla pari, che c'hai i tuoi genitori. C'hai i tuoi genitori. Comunque, fossi in te, scusa, cerca un'altra soluzione, qualunque cosa sia quella di cui hai bisogno, questa non funziona. Perché... Allora, a parte che l'urgenza è presto detto. Ve la spiego subito. Perché ho solo due alternative quest'anno. Vi dico solo due parole: colonia e nutrie. Colonia ho capito, nutrie cosa vuol dire? Cioè, colonia ok. Sono degli animali, sì, nutrie, però, che alternativa alla colonia è? No? Infatti. E quindi? Allora, quindi io, quest'anno i miei genitori soldi per me non ne vogliono spendere, no? C'è la crisi per forza. Sì, ma c'è la crisi solo per me. Loro hanno già programmato da 6 mesi un viaggio alternativo, di quelli che fanno loro radica, sulla cordigliera delle Ande, no? Bello! Viaggio, e quindi i soldi non c'erano più. Quindi hanno trovato due soluzioni: o 2 settimane in colonia per bambini disagiati, 78 euro in 2 settimane, o se no, e qui addirittura gratis, 2 settimane, perché mio padre ha comprato un appezzamento vicino a Milano, una specie di stagno. Sì. Due settimane vicino allo stagno. Lì ci sono delle nutrie, no? E quindi mio padre dice: senti un po', bambino Alberto, intanto che noi andiamo sulla cordigliera delle Ande, che facciamo una vacanza di quelle esplosive. Sì, appunto, ma io, ecco, lì abbiamo comprato l'appezzamento, il nostro terreno che un giorno sarà tuo. Sì. L'ho pagato pochissimo, l'ha andato alla fondazione. Per forza. Però sono le nutrie. È pieno di nutrie. E tu cosa devi fare? Una di nutrie, ma no? Ho capito, praticamente. Ma tu... quindi dovrei andare lì a cercare di mettere un po' a posto, qui eliminare queste nutrie. Ma come eliminare le nutrie? Cioè, ma da solo 2 settimane con le nutrie? Da solo, vediamo, appunto, chiediamo anche a voi, perché se diventassi bambino alla pari da voi, poi le nutrie andiamo in treno a prenderle. Sì. E lì ci sarebbe in tre. In un giorno. No, vabbè, io comunque. Poi vi faccio diciamo che io per nell'appezzamento. Sì, una specie di baracchine dei birdwatching, no? Sì. O dei pescatori. Ma vabbè, io per quest'estate ho tantissimi altri impegni. Zanzare ce n'è. Comunque andare con la tuta, quella tuta, capito? Però senti, bambino Alberto, alla fine non ti conviene andare in colonia. Scusa, come dai? 78 euro. Se mi prendono in colonia, la prima cosa che faccio, vado in bagno. E mi picco. Chiedo asilo. Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia e spompata, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo 2 per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario. Certo. Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere. Yeah! Oh. Era ora che qualcuno ricordasse ai nostri conduttori televisivi tipo Santoro, Lerner, Gruber. Se non c'è un nome italiano, Gruber, Santoro, Gruber, Lerner. Come si fanno veramente Morris, i talk show, cioè i Fight Club? Prima regola del Fight Club, cioè prima regola del talk show. Mm-hmm. Non si parla mai del talk show del Fight Club. E quindi come fai? Non so. La seconda regola del Fight Club è che non si parla del talk show. Ma cioè, è uguale alla prima. Sì, però fa più effetto, no? E Chuck Palahniuk. Drago, Chuck Palahniuk, Palahniuk, chi lo sa. Mica, capito, mica l'ultimo. Va bene. La terza regola del talk show Fight Club è che quando qualcuno dice basta o non reagisce più, anche se sta solo facendo finta, il combattimento è finito. Quindi se uno non reagisce più alla Russo o a Gasparri, ha perso. Certo, è un Fight Club, mica un circolo del tè. Vabbè, ma uno magari lo fa. La quarta regola del talk show Fight Club è solo 2 per ogni combattimento. Allora il format dei talk show andrebbe cambiato proprio da tutti i talk show, perché c'è sempre un affollamento pazzesco di ospiti. La quinta regola del VIP Club, Fight Club, del talk show è un combattimento per volta. Idem come sopra, c'è da lavorare La sesta regola del talk show Fight Club è che si combatte senza camicia e senza scarpe. Questa è interessante, anche se non auspicabile. Sì, infatti, prova a immaginarti, non so, Di Pietro a torso nudo, senza scarpe. Ecco, di Pietro mi preoccupano di più i piedi nudi, perché la settima regola del talk show Fight Club è che il combattimento dura per tutto il tempo che stabiliscono i combattenti. Beh, allora addio pubblicità, addio sigla finale, si va avanti a oltranza. L'ottava e ultima regola del Fight Club è che se inviti, non so, Piero Sansonetti, devi metterlo a tacere appena prova a aprire bocca, con ogni mezzo. Ma no, ma era diversa l'ottava e ultima regola. No, da oggi è così. Sansonetti va fermato. Ma le regole del Fight Club di Palahniuk o Palahniuk, anche se leggermente modificate, alla fine le abbiamo date, quindi auspichiamo che Lerner, Gruber, le abbiamo aggiornate, Drago, non modificate. Ok, però la stagione dei talk show, caro K, è praticamente finita. Tra poco cominciano con le repliche di Colombo, della Fletcher, e tutto va in valle. Siete stanchi del solito venerdì fatto di happy hours, di discotheques, di tatuage? Fate come me: un divano, un cane e un po' di fiction. È il venerdì. Come ti sembra come pubblicità del venerdì? Mi sembra una buona pubblicità. Bisogna capire chi è che è l'investitore. Va bene, allora, investitori, se volete pagare per questa cosa, prego, noi siamo qui. Vi do l'IBAN. Andiamo l'IBAN. Andiamo. Ok. Allora. Essere poco precisi, sai che K questa dovrebbe essere. Dai l'IBAN. No, ma che IBAN? Non me lo ricordo a memoria. Andate sul sito. No, nemmeno. Non lo so. Sito. Oh, è la puntata 200 questa. Anche se qualche puntata è saltata. Quindi.